Radio 24 Reportage. Spagna, le ragioni degli indignati, di Sabrina Pisu. Abbiamo comprato una casa nel 2007 con un mutuo. Per problemi economici non siamo riusciti più a pagarlo. C'è stata una sentenza e ci hanno buttato fuori. Sono venuti oggi per la quarta volta. Siamo rimasti in strada con un debito di 300.000 euro. Si sono tenuti la mia casa per 18.000 euro. Ora siamo senza casa e con un debito. Andiamo al comune per vedere se ci possono aiutare, perché non abbiamo un posto dove andare a dormire. Elisa e la sua famiglia vivono nel comune di Moncada Irexac, a 15 chilometri da Barcellona. È un giorno caldo di fine estate quando si ritrovano senza più un tetto, con sulle spalle il peso di un debito lungo tutta una vita. Io non lavoro, non ho nessuna entrata economica. Mio marito percepisce un sussidio di 420 euro. È molto difficile. Anche se ho studiato imprenditoria, non mi tornano i conti. Sono esperta con i numeri, ma i conti proprio non tornano. Il treno corre veloce verso Barcellona. Qui, dopo l'occupazione di Plaza Catalunya, il gruppo degli Indignados si è organizzato a partire dai quartieri dove le persone si incontrano e discutono, una vera e propria piattaforma cittadina alla quale partecipano giovani, uomini e donne di tutte le età che si impegnano quotidianamente in gruppi di lavoro su temi concreti, dando anche solidarietà e sostegno a chi ha perso la casa. La gente si mobilita perché non vuole pagare il prezzo di una crisi generata da una politica di speculazione finanziaria, ci racconta Fernando Paniagua, che fa parte del movimento. Quando mi domandano perché la gente è scesa in piazza, penso sempre che la domanda giusta non sia questa. Ma perché non ci sia più gente che si mobilita a causa della situazione economica e sociale? La grande domanda, quella che mi faccio, è perché il movimento di indignazione non sia mondiale e non credo sia necessario spiegare i motivi. Ci troviamo in un momento economico selvaggio. La corruzione e la disaffezione verso la classe politica sono in aumento. Le perdite generate da una politica di speculazione immobiliare, frutto di un'economia basata solamente sulle costruzioni, si stanno facendo pagare alla gente attraverso i tagli ai servizi sociali. Quando a pagare, invece, dovrebbero essere i colpevoli della crisi, che sono i costruttori, le banche e i promotori immobiliari. Tutto questo è esploso in un'onda di protesta che non si vedeva in Spagna da moltissimi anni. È lo che esplota e genera questa ola di protesta come non si aveva vivuto nel Stato spagnolo da moltissimi anni. La bolla immobiliare ha causato la perdita di una casa per milioni di persone. Secondo i dati del Consiglio Generale del Potere Giudiziario Spagnolo, dal 2007 al primo trimestre 2011 ci sono stati più di 200 sgomberi al giorno in tutto il paese. Il tasso di disoccupazione ha superato il 20%, mentre il debito di famiglie e imprese è al 225%. Gli spagnoli, con i giovani in prima fila, rivendicano il diritto a un ruolo attivo, il diritto al futuro. I principi comuni del movimento sono stati divulgati attraverso internet e sono all'interno di una carta che è stata redatta sia a Barcellona che a Madrid nel corso delle assemblee. I temi concreti sono l'ipoteca bancaria sugli immobili. Chiediamo che sia possibile lasciare la casa senza tenersi il debito. Stiamo per questo cercando di introdurre una figura giuridica che si chiama dación en pago. E poi la riforma della legge elettorale per permettere ai piccoli partiti di partecipare, perché l'attuale legge favorisce i partiti di maggioranza e tende al bipartitismo. E poi la libertà di stampa e di circolazione delle informazioni in internet. Difendiamo la cultura libera e la libera trasmissione delle informazioni. Lotta alla speculazione e alla corruzione politica. Diritto alla casa. Questi sono gli assi centrali del movimento. Ma la cosa importante non è tanto quello che dice il movimento, ma come lo sta dicendo. La cosa nuova, quella che ha cambiato la realtà in cui viviamo, è il fatto che la gente ha dimostrato di sapersi auto-organizzare, prendere iniziative, provare a formare gruppi di lavoro su un tema concreto per recuperare maggiori informazioni o semplicemente soppiantare e disertare il sistema politico attuale. Tu non mi rappresenti, Nessuno mi rappresenta. Questo è uno degli slogan più urlati nelle manifestazioni. Ognuno è responsabile della propria vita e delle decisioni che prende. E se tu sei responsabile, ti devi impegnare, devi lavorare per provare a ottenere quello che chiedi. La primavera spagnola ha inizio il 15 maggio scorso, quando in più di 40 città del paese esplode la protesta. Il cuore è Madrid, Puerta del Sol. Da Siviglia a Saragozza si leva un'unica voce contro la classe politica. Non ci rappresentate, dicono. Vogliamo una democrazia reale e partecipativa, perché urlano, sì, è possibile. Si preannuncia un autunno caldo con la grande mobilitazione europea del prossimo 15 ottobre, dopo un'estate altrettanto calda, animata dalla marcia popolare indignata, 600 chilometri a piedi, partenza il 20 giugno da Valencia con destinazione Madrid, quando il 23 luglio le strade sono invase da un'altra grande onda umana. Sì, se puede! Sì, se puede! Sì, se puede! Andreu Orradre ha percorso a piedi la lunga strada della indignazione. E quando ha partito la marcia dije, esto no me lo pierdo. Quando ho saputo della marcia mi sono detto, questa non me la perdo. Abbiamo iniziato a camminare in 60, siamo arrivati in 150 più o meno. A mano che ci avvicinavamo a Madrid si sono uniti in tantissimi. Alla fine, alla grande manifestazione della capitale, eravamo in 4.000. C'erano persone di ogni età ed estrazione sociale, dal chirurgo che guadagna 3.000 euro al mese a chi non ha più la casa e vive nella strada. La cosa più importante è il lavoro che abbiamo svolto durante il viaggio. Abbiamo conosciuto i problemi delle persone, ci siamo fermati in diversi paesi per fare assemblee dove partecipavano giovani e anziani. Abbiamo letto lo stupore nei volti della gente che vive nelle zone poco abitate dell'interno della Spagna quando ci vedevano arrivare. Si sono dati tutti da fare per aiutarci, trovarci un posto dove dormire, prepararci da mangiare. È stata un'esperienza meravigliosa. La Spagna, da protagonista del miracolo economico, come la definiva l'Economist qualche anno fa, ammalata d'Europa, mercato immobiliare e sistema bancario sono all'origine della crisi. Ci spiega Angelo Baglioni, docente di economia politica presso l'Università Cattolica di Milano. La Spagna ha avuto nello scorso decennio un fortissimo sviluppo del settore immobiliare che è stato finanziato da forti afflussi di capitale dall'estero intermediati dal sistema bancario. Si è creata la classica bolla immobiliare che poi a un certo punto è scoppiata con un forte rallentamento dell'attività immobiliare, appunto, un calo dei prezzi nel real estate, e quindi ovviamente le banche si sono trovate esposte a queste perdite che hanno dovuto subire per prestiti dati in questo settore. Il settore pubblico ha dovuto intervenire pesantemente a fare un piano di ricapitalizzazione del sistema bancario spagnolo. Tuttora il punto di domanda che rimane è quanto ancora lo Stato spagnolo dovrà spendere per venire in aiuto del sistema bancario spagnolo. La Spagna, nonostante la situazione economica, rimane un paese politicamente più credibile dell'Italia. Il governo è intervenuto con molta decisione per fare alcune cose importanti. Ha fatto una riforma del mercato del lavoro, è intervenuto sui saldi di finanza pubblica impostando una manovra correttiva piuttosto forte, e poi c'è anche da dire, appunto, che Zapatero, di fronte comunque a una situazione economica molto difficile, appunto a una disoccupazione alta e a malcontento diffuso, si è preso anche la sua responsabilità e ha deciso di farsi da parte. Anche questo è un segnale, diciamo, di responsabilità che evidentemente invece in Italia non si vede. Gli spagnoli stanno dimostrando una maggiore coesione sociale fuori da interessi di parte, nell'interesse del paese. Un paese che riparte dalla speranza, dall'indignazione, a cui segue l'impegno sulla strada indicata da Stefan Essel, 93 anni, combattente nella resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale e autore del libro Indignez-vous. In questo nostro mondo, scrive, esistono cose intollerabili. Per accorgersene occorre affinare lo sguardo, scavare. Ai giovani io dico, cercate e troverete. L'indifferenza è il peggiore di tutti gli atteggiamenti. Dire io che ci posso fare. Comportandoci così,